Chi più di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del World Urban Forum? La Zanzara. Ti ho comprato però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. In collegamento telefonico dalla saletta VIP con tanto di champagne, David Parenzo, buonasera. No, soltanto un banalissimo prosecco. Ma che banalissimo prosecco. Innanzitutto non sei come tutti i passeggeri normali dei voli all'Italia, o non so che altro, anzi solo all'Italia, in una saletta normale, nella sala testa, ma bensì sei nella sala VIP, diciamolo, con i divanetti di pelle, con qualcuno che ti serve, eccetera, eccetera. Il solito amico degli operai. La solita roba, dai, su. Ma non è che ho rubato. Poi vai là a fare lavoro, vai a vellicare gli operai, vai a solleticarli. Viaggiando moltissimo, ho diritto ad avere questa tessera come qualsiasi lavoratore italiano. Dunque, sia chiaro, l'amico degli operai, il difensore degli operai, delle cause di quelli che vengono licenziati, spesso pasteggia a champagne nelle salette VIP della Litalia. Ma intanto non c'è lo champagne. Se tu sei uno sfigato che non hai la tessera del no, non ce l'ho. Non ce l'ha, dunque chi non ha la tessera della sala VIP è uno sfigato, benissimo. Beh, chi viaggia molto sì, perché c'è chi no, ma sia chiaro. No, hai detto, come disse Michel Martone, di chi è ancora non laureato, non di la chi zanzara con me perché non ci riesci. Ho detto che chi viaggia molto e non ha la tessera è uno sfigato. È uno sfigato. No, tu hai detto chi non ha la tessera è uno sfigato, diciamolo tutto. Sì, sì. Però perché viaggio molto, ma io anche vabbè, comunque abbiamo capito tutto. Il ministro Fornero, io l'appoggio non al 100, al 200%, quando dice che mica sono come te, che i giovani non devono essere chiusi. I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo chiusi, come dicono gli inglesi. Cioè, io lo dicevo sempre ai miei studenti, prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno e lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito, non pensare che c'è sempre un'offerta migliore che ti arriva dopo, adesso non è più così con un mercato tanto difficile. Basta fare una puntura e tutto. Eh beh, siamo al top, Ha ragione, no, al 100, al 200%, anche le verità scomode ogni tanto, poi qualcuno ha sollevato il caso della figlia, beh, ma che c'entra? Cosa c'entra la figlia? Fa la professoressa universitaria con il padre e la madre professore universitario. Ma questo l'abbiamo già detto, l'abbiamo già criticato. Beh, la baronia universitaria che riguarda anche il ministro Fornero. Io però non è che quando parla di lavoro, scusa un attimo, non è che quando parla di lavoro non può parlare perché ha la figlia, perché altrimenti non dovrebbe fare il ministro del lavoro avendo la figlia all'università, essendo lei professoressa universitaria. Allora devi sostenere che non può fare il ministro del lavoro. No, dico che bisogna avere un po' più di rispetto per tutte quelle persone. Ma che quale rispetto? Ma che c'entra provano. Il rispetto? Dai, su, il rispetto non c'entra nulla, dai. Il rispetto non c'entra niente. Dice che ci sono un sacco di lavori. Ci sono un sacco di lavori. Le pizzette, sì, dategli le pizzette. Ci sono un sacco di lavori. Io credo. Aspetta, tu non credi niente, devi stare zitto. Devi stare zitto. Allora, la questione fondamentale è una: che il sottotesto della frase della signora Fornero è questo: ci sono un sacco di lavori che i giovani italiani non vogliono fare, basta prendere e basta andare su internet e vedere quanti lavori ci sono, falegname, cameriere, eccetera eccetera. Ci sono un sacco di lavori che gli schizzinosi italiani, soprattutto quelli che sono laureati nelle materie umanistiche, non vogliono fare. Non che vogliono banalità, fare. Questa mattina Giampaolo Panza ad Agorà ha detto che bisognerebbe cancellare metà delle facoltà umanistiche. Io sono d'accordo con lui. A te non interessa perché non sei nemmeno laureato. Io penso a quelle migliaia. Dillo che non sei laureato. Dillo che non sei laureato. Ma certo, ma no, dillo, sottolinealo. Ho fatto giurisprudenza, ma non l'ho mai terminata. Ma aggiungo dicendo che ho fatto l'esame da giornalista quando avevo 20. Senti, fermo un attimo. Oddio, ma non ce n'ho. Ma non, lo capisci come è fatta questa trasmissione? Non iniziare adesso i tuoi sprolochi. Abbiamo 2 ore e mezzo. 2 ore e 30. Qualcuno per cortesia mi porta delle pizzette, perché guarda, è inaccettabile. Senti, Giannino. senti Giannino che, sì, che ha intonato il coro di fermare il declino in piazza a Milano, è numero uno assoluto. Sì. Unitevi con me, fermiamo il declino, fermiamo il declino, fermiamo il declino, fermiamo il declino, fermiamo il declino, fermiamo il declino, fermiamo il declino. Beh, certo, fermare il declino non è che è proprio una cosa che trascini le folle, eh? Fermare il declino, però insomma. No, certo. La Melandri, prenderò 90 euro all'anno. Pare sia confermata anche l'incarico al Maxi, eh? Via. Accolgo questa proposta in puro spirito di servizio. Io sarò presidente del Maxi e credo che il compenso che perciperò saranno 90 euro, qualcosa di più all'anno, perché si calcolano 30 euro per consiglio d'amministrazione. E sono, lo dico semplicemente per sgombrare il campo da molti equivoci e per andare oltre. Ieri abbiamo intercettato, come al solito succedono anche queste cose alla Zanzara, Parenzo. Abbiamo intercettato una telefonata, ci è arrivato un nastro, il solito nastro che arriva alla Zanzara anonima, no? Arriva, certo, arrivano dei nastri anonimi, non sappiamo nemmeno chi ce li porti, insomma, ci vengono recapitati. C'era un minutino di una conversazione tra l'ex sindaco di Verona, di Venezia. Di Venezia, bravo, Cacciari, e appunto Melandri, PD, nominata al Maxi, qualcuno dice lo scivolo dopo il Parlamento. Dopo il Parlamento. Senti il nastro che ci è arrivato, lei dice che... Vabbè, insomma, sentiamo. Nastro segretissimo. Pronto? Sì, buonasera, Università San Raffaele, onorevole Melandri? Sì. Yes. Le passo il professor Cacciari, attenda. Grazie. Pronto? Ciao prof, come stai? Ciao Giovanna, bene, abbastanza. Volevo scusa, ti disturbo. No, dimmi tutto. Volevo soltanto esprimerti la solidarietà per questo attacco vergognoso, ma veramente vergognoso, che stanno facendo sul Max. Una cosa terribile, anche stamattina ero qua con amici a parlare a Milano, una roba indecorosa. Senti, è una cosa buffa, no? Perché in un paese in cui non si riesce a votare nel Lazio, la Lombardia sta messa come è stata, com'è, e i Fiorito e questi a destra e a sinistra, però fa scandalo che un ex ministro vada gratuitamente a provare a riorganizzare una istituzione culturale italiana. Ma sai, è l'impazzimento di questo mondo. Una bicicletta nuova. Poi la linea è caduta, 800 24 00 24, così ci racconta nel nastro questo bigliettino che ci è arrivato, Bah. Sant'Anché, spacchettare a N, Forza Italia più una lista civica, Italia che produce. L'idea della Sant'Anché sembra la stessa di Berlusconi, perché lei è uscita dall'incontro con Berlusconi dicendo più o meno facendo capire che non è così contrario alla sua rottamazione, ma semplicemente di spacchettare e di ritornare a quello che è sempre stato, cioè tutti insieme, ma ognuno con un'offerta di un programma politico e con sensibilità politiche diverse, quindi l'ex zona, diciamo area Alleanza Nazionale, ritornare a un partito come è stato Forza Italia, che è stata la prima lista civica di questo paese, più magari l'Italia che produce, un'altra lista civica di gente che non è mai stata in Parlamento. E via, cavalchi i miei pensieri, tu sei l'Amazzone di ieri. E abbiamo con noi qui alla Zanzara, in apertura di trasmissione, uno dei rappresentanti del nuovo partito delle Amazzoni. E beh, un Amazzone che ha anche il physique du rôle, devo dire, delle Amazzoni. Ma come ti permette? Ma no, ma il physique du rôle, non è mica una cosa negativa le Amazzoni. Le Amazzoni sono, delle... delle guerriere, anche piuttosto prestanti fisicamente, persone alte, con la chioma lunga. Guarda, ma che mancava un seno, le Amazzoni si tagliavano un seno per lanciare i dardi. Sì, d'accordo, ma che c'entra adesso? Questo è un dettaglio che non ci interessa, però quindi, ti assicuro che quando ti dirò chi c'è dall'altro capo del telefono, chi è collegato con noi, tu dirai sì, è vero, ha anche il physique du rôle dell'Amazzone. Sì. Va bene. Guarda, quando te lo dico direi subito hai ragione. Ma Renato Brunetta. No, guarda, Renato Brunetta. Che stronzo ridi? Che sei. No, no. Sei sconcio. Ma perché sei devi una persona sconcia, perché sei? Devi insultare il signor Brunetta? Perché Brunetta è una mazzone. Ma no, dai, su, ma no, ma che c'entra, dai, su. No, comunque guarda, vabbè. È chiaro, assomiglia a una mazzone. Nunzia De Girolamo, buonasera. Buonasera. Si vede che Parenzo ha studiato di più anche se non è laureato. In che senso? perché le amazzoni si tagliavano al seno, quindi rinunciavano alla loro bellezza, sì, per essere più credibili nella guerra. Certo. Questo è vero, però lei si sente un po' amazzone fisicamente, alta, con la chioma lunga, nera, e insomma c'è il physique, è abbastanza combatte dialetticamente, per cui si sente un po' amazzone, oppure le dà fastidio questa definizione? Innanzitutto non mi ricordo, scusi De Girolamo, ma chi è che ha introdotto questa definizione per descrivere alcune donne intorno a Berlusconi o comunque berlusconiane che vogliono rifare il partito, Forza Italia, eccetera? Allora Cruciani, premesso che ho il physique di Ron per menare come una mazzone, quindi... Ah, per menare sì. Però perché deve menare? Perché deve menare me? Disciplinato in questa trasmissione. Io sono disciplinato, No, lei è disciplinato. Però detto ciò, siamo al solito, il nostro partito, se c'è una donna che fa politica, che sa mettere in fila A, B, C, D, che è anche radicamente territoriale, quindi non è che viene da altre esperienze. Ma sta parlando di Nunzia De Girolamo, lei dice. Di me come di altre persone, che sono altre donne che ci sono nel partito, ne sono tantissime. Ne signora Biancofiore, per esempio. Biancofiore, la Ravetto, la Beatrice Lorenzin, la Meloni, ce ne sono tantissime. Se queste persone con molto coraggio chiedono... esattamente forse come delle amazzoni, che nell'antichità una figura nobile, chiedono rinnovamento, vengono bollate amazzoni nel nostro partito, secondo me con un'accezione negativa. Cioè che accezione? Perché? tipo amanti, diciamo, tipo amanti quelle di Gheddafi. Io consiglierei a Berlusconi di scoprire chi dei del partito ci ha dato questo appellativo, perché evidentemente si augurano che Berlusconi faccia la stessa Gheddafi, quindi il problema non sono le amazzoni, ma chi le chiama amazzoni. Chi le chiama amazzoni, quindi, si augura che Berlusconi faccia la fine di Gheddafi. Probabilmente. Ma è stato Lupi? È stato Lupi per primo l'altra sera in una trasmissione, oppure già era precedente? Oppure la cosa era precedente? No, non lo so, penso che Lupi abbia raccolto le amazzoni. Chi è stato? Lei lo sa, chi è stato? Chi è stato? La russa? Magari lo sapessi. Guardi, io non mi sento un amazzone, sebbene, come ha detto lei, sia dialetticamente che come carattere. Io sono abbastanza una guerriera, non sono una che si arrende facilmente, sono abbastanza aggressiva. Però scusi, nell'accezione originale lei si sente un po' amazzone allora? Se nel termine della civiltà greca sì, potrei dire di sì, ma dico che molto ne lo sono, visto vivere in questo paese, essere donna in questo paese, devi essere una amazzone per resistere. Comunque il suo partito è maschilista, i dirigenti del suo partito in questo momento è un partito maschilista, infatti dico che a questo punto, se non mi piace questo modo che hanno di dirlo, anche un po' scherzoso, negativo... Sì. Di dire amazzoni, sinceramente, sa che le dico, meglio essere amazzone piuttosto che coppiere. E via, cavalchi i miei pensieri, tu sei l'amazzone di ieri, ma oggi sono stanco e mal disposto a sopportare i tuoi sbalzi d'umore e quei naufragi che mi dai. Allora, il combattimento a cavallo è la specialità delle amazzoni, Lei va a cavallo, signora De Girolamo? Mi piace molto. Ah, va pure a cavallo. Sceglierei un bel cavallo nero. Va pure ovviamente. A cavallo. Certo. Selezionano i loro animali e mantengono con loro un rapporto di affiatamento totale che le rende delle perfette centaure. Vabbè, cavalcano stalloni, vabbè, lasciamo perdere i doppi sensi. Nel periodo in cui i greci, no, sto scherzando. Ho detto che sono una mazzone, sai come la vedo, che ricordo che sono una mazzone. No, cavalcano stalloni nel periodo in cui i greci si accontentano di poni. Vabbè, lasciamo perdere, non l'ho fatto apposta. Lo stavo leggendo, Cruciani, l'ho avvisato. No, ma non l'ho fatto apposta, sul serio, lo stavo leggendo. Ho capito questa cosa degli stalloni, ma non dai, importa, su, perché... David, non scendiamo. Ma entra... Almeno voi due tentate di essere meno maschilisti rispetto al resto del paese. Ma infatti non, appunto, io non sono per niente. Entrambi. Ma io non sono, guardi, se c'è una cosa che non sono maschilista, guardi, zero totale. Poi quando parlando con chi sono i parlare di pony, quindi di pony, in che senso bisogna parlare di pony con me? Di diciamo, se si parla, voglio dire, lei stava facendo questa metafora delle amazzoni e degli stalloni e dei pony. Lei è notoriamente un pony, ma andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. Non l'ha capita nessuno questa cosa, non l'ha capita nessuno. Comunque. Chi doveva capire ha capito. Ma non, non l'ha capita nessuno, ti assicuro. Hai non... visto cosa ha detto? Voglio chiedere una aspetta, cosa no, no, no, c'è la questione dei coppieri, lascia perdere la Minetti, che ci importa. La Minetti ha detto le cose fondamentali, che senza sesso non può vivere. Senza appunto. Sesso non puoi, quello tutti però, non vivo senza sesso, per me è una medicina, basta una notte d'amore per tornare di buon umore, questo mi sembra scontato. E poi sono stata con una donna. Lei è mai stata con una donna, signora De Girolamo? Bravo. Ma proprio no. Proprio no. No, no è la risposta. Scusi, chi sono i coppieri? Del PDL? Oh, ma io non è che beh, come no, di persone, non è fatto una questione di persone. No, no, assolutamente, dico che sono quelli che ci hanno chiamato in questo modo. Chi ci ha tacciato di essere in senso negativo delle amazzoni si senta un coppiere. Ho capito, però parte, come lei dire, sa... se noi siamo in questa condizione perché forse ci sono state troppe persone che hanno saputo dire solamente sì, troppi esatto. Coppieri e non dire la verità come diciamo noi oggi che il partito è in difficoltà e va rinnovato, punto. Il coppiere versava nel medioevo il coppiere versava nel medioevo da bere ai commensali, cioè una sorta di servitore, diciamo, no? Anche con una certa dignità, ma servitore. Ecco, però voglio dire, lei non può sfuggire alla domanda: chi sono i servitori per eccellenza? Signor Gasparri, per lanciamo esempio? Lanciate un sondaggio. Il signor Gasparri prende il suo nemico Gasparri? Lanciate un sondaggio. Lancia, però non è che uno può lanciare questa cosa. Ci divertiamo, vediamo che ne pensa il paese, chi sono i coppieri. Se chi sono i coppieri? Sono le amazzoni. I coppieri, ma quanti ce ne sono di coppieri? Questo si può dire senza fare nomi. I coppieri. Pieno di coppieri. Sono un po', come ci sono un po' di amazzoni, ci sono un po'. Ma di solo tra gli ex AN sono i coppieri? No. Però molti sono dagli ex AN, No. Par condicio in questo. Par condicio. Scusi, un'altra cosa, poi la lascio. Ma la Russa che ha detto sostanzialmente Berlusconi se ne vada, è meglio spacchettare, e poi più o meno quello che dice la Santanchè alla fine. Però la Russa dice, beh, insomma, se ne vada a fare la sua lista, noi ci teniamo il PDL, una cosa di questo tipo. Cosa vuole rispondere al signor La Russa? Che lui, se vuole fare il PDL e chiede a Berlusconi di andarsene... proceda, cioè proceda, Berlusconi se ne vada lui, dice proceda, lui. Cioè no, si può tenere il PDL, Berlusconi si fa una lista dell'Italia che lavora e non cacciassero farsi sondaggi, perché Berlusconi se dovesse fare una lista, i sondaggi che girano oggi sono dei sondaggi ipotetici, cioè del 5%, dice lei. Sono indiscrezioni giornalistiche, non è mica annunciato qualcosa, non sappiamo chi sono i candidati e ci ma lei in Forza Italia, se facesse una lista di Forza Italia, entrerebbe in questa lista di Forza Italia? Come si io sono una nostalgica di Forza Italia perché io nasco con Forza Italia. Dunque, quindi... se Berlusconi fa Forza Italia, lei va con Berlusconi? Io vado con Berlusconi, certo. Ma io penso che Berlusconi e Alfano siano la faccia della stessa medaglia. Tutte le polemiche in questo momento di questi non lo so. Giorni sono costruite. No, sono costruite. Lei dice che sono costruite ad arte. Mi sembra che in questo momento Ci siano due agende diverse. Uno vuole mantenere più o meno la situazione com'è, Alfano. Berlusconi vuole rompere facendo questa lista Forza Italia, altre liste agganciate a questi ex AN. Vabbè, comunque qui entriamo in altri dettagli. Comunque sì, lei però dovrebbero capire che Berlusconi è genio e follia e che non si può prescindere da lui. Quindi. In che percentuale è follia? Cioè Berlusconi comunque vale appunto, questo non è male come cosa. È più follia o genio? Entrambe le cose. certo. È molto trattenuto. Il libro è dato dalla 50-50. È molto trattenuta. E poi nella vita non ci vuole follia, altrimenti. No, ma assolutamente. Vabbè, grazie. A presto. Grazie ad entrambi. Che comportati cara. Più o meno bene, comportatevi bene anche dopo. No. Sempre vi incontro fra le strade. La cosa che voglio capire è quanto le manca in questo periodo suo marito che gira come un pazzo per Bersani. Ma è un problema serio questa cosa qui. È un problema serio perché esiste solo un welfare che funziona, quello familiare della mia famiglia di origine. Un po' lo invidia però per questo, un po' lo invidia perché comunque lui gira la democrazia alle primarie, mi dica la verità, lo invidio mio marito. Perché io ho sempre chiesto le primarie, poi le primarie comunque sono un momento di dibattito interno. Quindi invidio mio marito per questo, invidio mio marito, diciamola tutta. Un po' lo invidio, un po' lo perché invidio, quando va nelle piazze e sta fra la sua gente, io vorrei stare anch'io nelle piazze fra la mia gente a dibattere su che cosa siamo d'accordo e cosa non siamo d'accordo. E invece un po' non si può fare, un po' c'ho mia figlia, è un po' maschilista il signor Boccia. Anche il signor Boccia non c'è male, è un riformista di sinistra. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me. Tu lo sapevi, caro Parenzo, che da qualche giorno esiste, da qualche settimana, la Berlusconi Generation? No, ma francamente vivo anche senza sapere questa cosa, guarda. E naturalmente è una definizione coniata dalla signora Biancofiore, White Flower, White Flower. Berlusconi Generation, regali a Berlusconi il partito che ha sempre voluto, la Berlusconi Generation. Ma esiste o non esiste alla fine la Berlusconi Generation? Per una volta la sua classe dirigente, che è quella che lui ha fatto crescere, quella che io chiamo la Berlusconi Generation, può portare a lui in dote qualcosa, non aspettare sempre che Berlusconi ci dia qualcosa, ecco. Perché anche è profondamente ingiusto. E quindi noi gli vogliamo regalare il miglior partito, tra virgolette, perché come le ho detto non è un partito, che lui ha sempre, al quale lui ha sempre aspirato. Certo, passa dall'orecchio e sempre gira intorno a te. E balli so twist, e balli so twist. Noi, ribadisco, non vogliamo il sangue dei vinti, nessuno ci ha la bava alla bocca, sennò saremmo comunisti. Noi vogliamo semplicemente restituire a Berlusconi il suo consenso. Cioè sta dicendo che i comunisti invece hanno il sangue alla bocca, insomma. La bava alla bocca, allora il sangue, ora il sangue dei vinti. A proposito di sangue dei vinti, Panza ferocissimo contro Formigoni questa mattina, l'antipolitica, Panza, Giampaolo Panza, antipolitica, colpa di tipi come Formigoni, quello che ha detto che bisogna tagliare e cancellare le facoltà umanistiche, e ha perfettamente ragione, cancellare metà delle facoltà umanistiche così la gente non rompe più le balle sulla disoccupazione, andate a fare i camerieri, i fornai, gli elettricisti, gli idraulici, se non avessi lavoro lo farei. Che figurati. Da dove nasce la cosiddetta antipolitica? Nasce dai tipi come Formigoni. Ma Formigoni dovrebbe essere denunciato dal proprio partito, dal PDL, perché è un avversario senza, ma spero inconsapevole. Ma è rimasto in piedi, ma doveva andarsene via. Questa giunta tecnica fa ridere. Ancora pazza, Formigoni prende e vada in vacanza per sempre. Formigoni si è squalificato, Formigoni non dovrebbe più uscire di casa, prenda, vada di nuovo in vacanza chissà dove e ci rimanga lì fino a quando si stufa. Una botta a polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro. Marco Travaglio, Tosi razzista, ma purtroppo amministra bene. Non ho capito questa cosa. A parte come fa a sapere che a Verona Tosi amministra bene, è un mistero divino. Uno può dire mi sembra che amministri bene, mi sembra. Poi Tosi razzista, perché è razzista? Sentiamo. Andate a Verona, c'è Tosi. Tosi a me non piace perché dice delle robe razziste contro gli immigrati, però Verona è ben amministrata, purtroppo. E invece Maroni è un travè, una nullità ambulante. Maroni è, anzi, come diceva Fino, è il contrario del leader carismatico, è un Tabet, è uno che può dire anche la cosa più geniale del mondo, ma non buca, non se ne accorge nessuno, nessuno si ricorda una frase di Maroni, non lascia il segno proprio, è l'aria che cammina Maroni, è come Frattini dall'altra parte, sono nullità ambulanti. Questa non è male, però non buca, non resta una parola di quello che dice Maroni, questo un po' è vero, magari non è una nullità ambulante come dice, ecco, come dice. Però è vero che non ha quel carisma di Bossi, non c'è niente da fare. Beh, però voglio ricordare gli insulti che il divino ti ha propinato ieri sera. No, ma quel personaggio lì è aspetta, una brutta persona. Aspetta, aspetta. Arrivano. Non ce ne potrebbe calere di meno di questo insulso, essere senza capo né coda, che non sappiamo dove avete raccattato, probabilmente a Porta Portese o sotto qualche ponte del Tevere. Quindi cacciatelo, ributtatelo nelle fogne da cui proviene e parliamo di cose serie. ributtatelo nelle fogne. Parenzo, torna nelle fogne, lo dicevano i fascisti. Com'era il coro? Fascisti carogne, tornate nelle fogne. Tornate nelle fogne, al contrario, lo dicevano gli antifascisti contro, certo, i gli antifascisti verso i fascisti. Certo. Ma no, si può solo rispondere. Adesso posso andare. No, nel non bagno, c'è bisogno di rispondere. Lucio Malan, il quale ricordo che ha tra virgolette assunto nella sua segreteria tempo fa, credo, la moglie, la figlia della moglie, una cosa come, vabbè, che poi un giorno riprenderemo. Questa mattina sostiene questa tesi particolare dal nostro amico Milan: se uno diffama la politica, cioè un politico, la pena deve essere 5 volte superiore. Non ho capito bene, ma sentiamo. Ma se c'è una diffamazione, cioè viene detta a proposito del Parlamento una cosa, sì, non vera e gravemente lesiva della sua dignità, già oggi la legge prevede una grave di pena. Ma allora, la quantifico, e perché lei... della misura di 5 volte il costo di una pubblicità di pari ampiezza di quanto era la. Cioè lei ha... che non mi fa dormire la notte. Bah. Mi ha beccato. E va bene, 800 24 00 24. Lo so, l'ultima cosa, dimmi. No, perché voglio dire, adesso l'altra volta l'onorevole si è risentito per la lettura di quel comunicato. Ma l'onorevole Crolla torna a parlare di elezioni americane, l'onorevole, sì, Crolla. Stavolta leggi bene. Il mio amico Crolla 2 punti, elezioni presidenziali sono il successo del sistema politico USA. L'Italia prenda esempio iniziando con una nuova legge elettorale. Allora, sperando che tu abbia letto bene, devo dire che è l'elogio sic et simpliciter, cioè l'elogio molto semplicemente del sistema elettorale americano. E vabbè, effettivamente non serviva questa dichiarazione. Ma tu ti immagini invece cosa succede alla Casa Bianca ora, quando hanno visto nell'ANSA la dichiarazione del signor Crolla? Ancora con sto Crolla, sì, e basta, sì, dai. L'ultimo dibattito per la corsa alla presidenza degli Stati Uniti ha un unico vero protagonista e vincitore: il popolo americano, dice Crolla. Ora tu immagini la scena del primo collaboratore del signor Obama. Ancora bussa, con questa cosa, dai. Senti, questo è il cristallo, bussa. Sì. President Obama? Yes, please, dice Obama. Ma perché devi trattare male Crolla, il povero Crolla? Il collaboratore, onorevole Crolla, that says that this primary election are very, very good. Dice il signor Obama. Great. Who is Mr. Crolla? It's a member of parliament of House of Freedom. Ma ti rendi conto? Rita da Modena, io ti lascio fare questo show, adesso mi arriverà un messaggio, Crolla incazzato, Crolla, con te, eccetera. Rita da Modena, buonasera, anzi, prima c'è TG3. Rita, scusi un attimo, TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Finmeccanica, ipotesi di tangenti sulle vendite di armi, arrestato il manager Pozzessere, indagato per corruzione anche l'ex ministro Scajola. Grilli, il 99% avrà benefici fiscali della legge di stabilità, per la Corte dei Conti penalizzati i redditi più bassi, Banca Italia, nuova manovra primavera. Bersani, la manovra va cambiata, ardito sostenere che non pesi sulla gente, domani l'incontro con Monti, stasera a Palazzo Chigi, Berlusconi e Alfano. Napolitano, siamo passati dall'emergenza alla stabilizzazione, non buttare a mare i sacrifici fatti finora, l'importante impegno anticorruzione. Regole delle primarie, Renzi ricorre al garante, l'albo degli elettori viola la riservatezza, gli avversari un trucco per non parlare di programmi. Dopo la condanna all'Aquila si dimettono i vertici della Commissione Grandi Rischi Solidali Sismologi di tutto il mondo, al TG3 De Bernardini, all'epoca numero 2 della Protezione Civile. All'indomani dell'ultima sfida tra Obama e Romney, incubo razzismo sulla campagna elettorale, una ragazza di colore data alle fiamme in Louisiana, accusa il Ku Klux Klan. Giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Eccoci, allora, Rita. Buonasera, signor Crociano. Dica, che ride. Fate morire da ridere. Dica, signora, no, Rita. Posso salutare il signor Parenzo prima di tutti? E saluti il signor Parenzo. Allora, il signor Parenzo, dottor Parenzo, che è simpaticissimo, cara, in una maniera... Allora? e anche un bacio. E poi, senta, grazie, ma Rita, lei cara. Veramente, dottor Crugiani è una capra, eh? Sì, è sicuro. Veramente una capra, non sa le minime cose, sì. Va a chiedere sempre, si va a informare di cose, ma ieri sera era la danza delle ore, quella, sì. Quel motivetto che era in attesa, per metterlo in attesa con sua eccellenza. Ma di chi sta parlando, scusi? Ieri sera si ricorda, ma come non si ricorda le cose che fa in trasmissione? Io mi ricordo tutto, che cosa? Il collegamento con la sua eccellenza? E allora qual è il problema? È ignorante, in alcune cose lei è ignorante. Ah, perché non riconoscevo la musichetta lì. Esatto, ha una ma questo è la ciliegina sulla Vabbè, torta, ho capito, lei mi sta dando dell'ignorante, non c'è problema, Rita, no, faccia pure. A lei piacciono tanto queste cose, no? Sì. Piacciono tanto. Vabbè, allora, poi? Trattare a tu per tu. Allora, le volevo dire, questa trasmissione che lei... Con le amazzoni del fiume, alleate con la luna, l'obiettivo era comune, la via di uscita solo una, perché avevano deciso... Ma tra le amazzoni va annoverata o no la signora Minetti? Pronto? Love of my life? Allora... Ciao amore, bene, tutto bene? Sì, facciamo una cena qua dopo tanto tempo. Sì, che bello. Amore, posso portare una mia amica? Certo. Carinissima, bellissima, certo. Alla seconda laurea, guarda, è giustissima. Benissimo. Ottimo. Va bene? Grazie. A stasera, un bacino. Ciao, ciao amore. Grazie. Ciao. Dolce della resistenza. Nella fondamentale intervista rilasciata a Diva e Don, sostiene: Formigoni doveva rimanere. Non bisogna cancellare il listino bloccato nel quale è stata eletta, perché si permette in questo modo ai giovani che si vogliono affacciare alla politica di farlo se non hanno risorse economiche per una campagna elettorale. Gabriele Albertini, più come protagonista del film di Tinto Brass, in cui lui vorrebbe vedere me. La mia filosofia è: un uomo al giorno toglie il medico di torno. Non è male questo, eh? Non vivo senza sesso, per me è una medicina. Basta una notte d'amore per tornare di buon umore. Sono stata con una donna. E qui via le fantasie. Grande fu la disperazione fra tutti gli emarginati, perché volevano milioni per tesoro. Ehi, pronto. Come sta la mia consigliera bravissima? Bene, bene, tu come mi parlano tutti così bene di te, amore, che mi fai un piacere. Davvero? Davvero, amore. Sì. Trovarono a Parigi in discoteca. Ma sì, pronto. Come sta, consigliere? Tutto bene, lei presidente come sta? Io sto come cavolo mi pare. No, come? Io sto come cavolo mi pare. E come sta? E come sta questo cavolo? Sta bene o male? Sta malissimo. No, dai, non dire così. Malissimo. Perché? Allora, stasera noi andiamo alla partita. Sì. E poi andiamo a cena. Sì. Orecchiano della resistenza. Lei ci si merita questo posto in consiglio regionale? A mio avviso sì. Perché? Perché a mio avviso sì. Perché comunque sono una giovane con tanta voglia di fare, umiltà, piano piano sto cercando di imparare, sto cercando di portare quelle che secondo me sono le tematiche che stanno a cuore a me e ai cittadini. I pesci la salvarono, sulle acque la portarono. Questa è la Zanzara, 800-24-0024. Rita, allora, Rita, dica. Mi ha lasciato sospesa. È una, mi scusi, è una domanda che io volevo porle da sì, molto Sì, qual è tempo. La domanda? Mi dica. Forse, ma perché lei con alcuni interlocutori si comporta in questa maniera, così cattiva? Con alcuni... Io ho detto qual è la domanda, Rita? No, io capisco perfettamente, ho un'età tale per cui riesco a capire quando uno... scusi, siccome a lei piace molto parlare... Va bene, ci vuole pazienza, vado avanti, Rita. Scusi, non mi interrompa, quando io sto sulle palle a qualcuno lo capisco immediatamente, non mi fa anche sparlare, che è una cosa che non uso generalmente. Siccome in questo momento lei mi sente e le sto sui coglioni, Eh no? E allora, ma guardi, che io non la conosco maniera. E non mi io sta non sui coglioni. No, no, ma lei basta che qualcuno le dica una parola che a lei non fa piacere, subito si mette sulla difensiva e poi tratta male. Va bene, perché questo. Ma io non sto dicendo niente, non la sto trattando male, è lei che fa tutto da sola, si è arrabbiata da sola. No, io non mi sono arrabbiata, io sono calmissima. E allora vada, dica la sua, di che vuole parlare? Allora, io le volevo dire, è una domanda che cerco da fare, cerco di fare da molto la tempo. La faccio. Come l'intento, ecco, non faccia queste, che mi fa solo perdere del tempo. Ho detto la faccia! Allora, non interrompa, che lei perde del tempo, non interrompa, per cortesia. Fra un po' mi stanco, dire, sì. Intanto, ciao Parenzo, sei un amore. Allora, ciao cara, volevo ciao, dire, combatti contro il tiranno. Mi piace da morire, Parenzo, è un amore. Allora, brava, le volevo dire, come vede l'Italia del futuro lei? Senta Rita, non mi rompa le scatole con queste stupidaggine. Renato da Bergamo, ma che me ne frega dell'Italia del futuro? Io vedo l'Italia del presente, me ne frego dell'Italia del futuro. Ma come? Ma lei io la vedo come Giannino. Guardi, le vuole sapere come la penso io? Si legga il programma di Giannino, fermare allora il declino. Il e allora legga quello, io la penso esattamente come Giannino, al 100%. Non c'è una cosa su cui non sono d'accordo. Ecco, al 100%. Allora perché, in alcuni momenti sembra che a lei non gliene freghi niente né dell'Italia né di quello che sta facendo, né nelle elezioni che ci saranno prossimamente, non gliene frega niente assolutamente, basta che sia la tua trasmissione e che la trasmissione abbia un audience. Brava, capito bene. Ogni tanto non me ne frega niente, sì, spesso allora, non me ne frega niente. Qual è il problema? Non voglio mica cambiare le sorti dell'Italia. Vabbè, Rita, non me ne frega più niente, su, basta con questa discussione inutile. Che venga assunto da media, ma chi se ne frega? Ma non dica stupidaggini. Ma sì. Signora Rita, lei, ma scusi, che fa dalla mattina? Ma scusi, che fa dalla mattina alla sera? Lei pensa a questa cosa? Cioè, ha perso pure del tempo. Io sono una persona che insomma abbastanza colta, abbastanza bene, ma sono contento per lei, io invece no. Grazie. Ho una loquela, molto probabilmente, siccome lei non mi frega, cioè ho una loquela. Che cos'ha una loquela? Una loquela? Sì, vuol dire. Si dice loquela, sì. No, non per capire. Impari l'italiano. Lo so, devo imparare un po' l'italiano. Latino. Ma qual è la sua cioè che ha fatto il liceo? No, no, guardi, ho la quinta elementare. Per non sapere cosa significhi coppiere, per non sapere cosa significhi. No, coppiere lo so. Ho fatto la quinta elementare, abbia pazienza. Nemmeno la danza delle ore. Per la maggior parte del suo io la seguo perché lei sì. Io sono ipnotizzata dalla sua trasmissione sì. E non c'è una sera ma che io ho la quinta elementare Rita. Guarda che la signora no, ma lei è laureato ma quando mai non mi prende per il culo a me vede non parlo mai ho la quinta elementare. Guarda sì, che ma la signora Cominciani, lei è di una malizia, di uno smaliziato che lei cara Rita, la saluto. No, non mi saluti. E che devo fare? Devo stare con noi tutta la sera. L'unico mio scopo era quello. Ma è 10 minuti che sta parlando, no, cara Rita. Di parlare con Parenzo. Di parlare e che con vuole Parenzo. Dire a Parenzo? No, avanti, su. Un secondo solo a Parenzo. Che vuole dire a Parenzo? Su. Gli dia un bacio. No, senta, lo sa, ma sono troppo vecchia, potrei essere la sua mamma. Vabbè, allora, volevo dire... Quello Parenzo, sa contenta pure di questo. Lei lo sa che da che è entrato Parenzo nella trasmissione, la sua trasmissione è decollata con un audience... Eh beh, certo che lo so, allora... Allora, Rita dice quando parla di loquela, il povero Cruciani, appunto, che ha fatto scuole basse, non lo sa, deriva dall'Equor, l'Equor Loqui, che in latino aurea meravigliosa. Vabbè, allora Parenzo? L'Equor Loqui, sì. Locatus sum, cioè esatto, capisco esatto. Che bravo, ma infatti se non ci fossi tu a innalzare il livello di questa trasmissione saremmo loquor, tutti perduti. La loquela è un latinismo. Benissimo, capito? Voi siete molto colti, io invece sono un uomo di popolo, come diceva una volta Tremonti, noi non leggiamo i libri, siamo uomini di popolo. Rita, la ringrazio. Romano da Milano. Romano delle ore era meravigliosa. Com'era la danza? Ah, quella là. Come si chiama? La danza delle ore. Lei non è riuscito. Ma che ne so, ma che me ne frega. Romano da Milano. Non me ne frega niente. Ma la cultura non conta più niente. Ma che c'entra? È di un qualunquismo allucinante. Va bene, Rita, grazie. Romano da Milano. Buonasera, ho già visto 3 volte buonasera. Volevo dire, ho sentito che lei in pratica condivide quella sciocchezza che ha detto Giampaolo Panza della soppressione della metà delle facoltà umanistiche. Assolutamente sì. No, scienza della comunicazione, della non cultura. So che altro. Ma quale lei, cultura? Certamente al corrente che c'è una distinzione per esempio tra il liceo classico e il liceo scientifico. Si dice che tutti quelli che abbiano frequentato il liceo classico hanno maggior successo addirittura nelle materie tecniche. Ma non lo so, queste sono secondo me bisogna avere delle statistiche serie per dire una cosa di questo tipo. Comunque io penso che nell'università, cioè ripeto, nell'Olimpo, dove è il motore della cultura, le facoltà umanistiche, sa quanti laureati in filosofia hanno successo anche nell'economia, Vabbè Romano, lei può dire quello che vuole, io rimango dalla mia idea. Un gesto importante sarebbe quello della cancellazione totale di molte facoltà umanistiche che servono solamente a produrre disoccupati. Grazie. 800 24 00 24, questa è la Zanzara in collegamento da Miami, caro Parenzo. Non è un giocatore di pallacanestro, non è un protagonista politico negli Stati Uniti, è uno degli azionisti, forse il più grande azionista dell'unità. E cosa ci fa a Miami? Beh, a Miami ha le sue attività, affari, vita privata, ma quello che gli pare. Perché? Che ti interessa che sta a Miami? Qual è il problema? Scusa. No, benissimo. Comunque, anche, signor Maurizio Mian, buonasera, quello del cane Gunther, come sta? Buonasera. Bene, molto bene. Voi? Beh, non c'è male. Pisano è stato anche presidente del Pisa, insomma, tempo fa. Certo. O sbaglio, signor Miano? Mi complimento con voi perché siete i miei cari amici della notte. Io ascolto spesso il posticipo vostro notturno delle due di notte, dell'una di notte e delle tre, e quindi... E gode, e cari, gode. Cari amici, cari compagni. E ogni tanto gode. No, ma insomma siete bravi. Salutatemi anche Barisoni, che è una bravissima persona. Io lo salutiamo, non si preoccupi. Barisoni? Ma che non c'è più, no? No, l'hanno cacciato, no, c'è ancora. C'è lotta, come no? Sto scherzando, no, c'è. Al massimo cacciano noi, non Barisoni, non si preoccupi. Sentami, Anna. Se vi cacciano venite da me a Miami, venite qui a fare una trasmissione speciale della Zanzara. Beh, signor Miano, guardi che se lo dice un'altra volta ci pensiamo seriamente. Un'altra volta e anche tre se volete, vi aspetto qua, facciamo uno speciale della Zanzara dalla villa di Miami. Le donne le porta lei, le cubane esuli? Ma perché Miami? Cubane per forza? No, sulle donne c'è tutto un teorema. Bisognerebbe parlarne. Parliamo prima dei cani, che forse è meglio. Scusi un attimo, lei può ricordare alla vasta platea della Zanzara quanta percentuale ha dell'Unità, il quottidiano che fu fondato da Antonio Gramsci? Quanto ha? Il 37%? Quanto ha? Sì, 37 qualcosa per cento, è vero. Il 37%. Bravo. Ricordiamo anche che una parte, come è stato scritto in questi giorni, lei ha anche rilasciato un'intervista al Fatto, una parte di questi soldi, non so se tutti quelli che poi lei ha impiegato per rientrare nell'Unità nel 2009, sono soldi scudati, giusto? Sono tutti scudati. Tutti scudati. Ce da lei mia madre, da mia madre e da me, più da mia madre che da me, però sono soldi scudati. Io ho un'eredità perché la povera mamma è mancata, purtroppo. Ci dispiace. Comunque sono scudati. Sono scudati. Sono scudatissimi, cioè rientrati all'estero. Adesso noi non chiediamo come siano stati realizzati questi capitali, immagino in maniera lecita, no? La vendita di un'azienda farmaceutica, una grande scoperta, una grande idea ci è venuta, abbiamo avuto fortuna e la Merck, una ditta americana, ci ha pagato tanti soldi. Questo quando a suo tempo, non per causa nostra ma di altri soci, l'azienda è stata trasferita nel Liechtenstein e quindi li abbiamo tenuti nel Liechtenstein. Poi c'è stato Tremonti e abbiamo tremontizzato i denari. Ecco, Santo Tremonti si potrebbe dire, no? Sì, certamente. Giulio l'ammiro molto, devo dire la verità. Non per questo, anche per questo si potrebbe dire. Vi ha permesso anche di far rientrare i soldi in Italia, insomma, no? Anche per me, questo Cruciani, certamente. Certo. Senta, Mian, ma il signor Bersani, che ha polemizzato, come lei sa naturalmente, in questi giorni con Davide Serra per questa storia delle Cayman, dunque direttamente con Renzi, sapeva di questa cosa qua, che insomma una parte consistente del capitale dell'Unità, cioè del giornale, eccetera, è scudata, lo sa? Io li avevo avvertiti tutti, avevo detto che e la mia storia è una storia del tutto legale, del tutto sana, però se devo vergognarmi un po' di avere scudato i soldi, posso farlo, però di più non posso fare. No, perché si deve vergognare? Scusi, perché si deve? Lo sapevano assolutamente tutti che erano anche Bersani? Anche Bersani. In collegamento da Miami, dove fra poco ci trasferiremo, caro Parezzo, quando ci cacceranno da questo luogo, grande trasferimento della Zanzara a Miami. Fatelo prima perché non vi cacceranno mai, siete troppo forti, troppo bravi. Guardi, non dica cose che magari poi non si realizzano, però insomma... Ci sono anche queste possibilità, è anche possibile, magari ce ne andiamo noi, cioè scegliamo di venire a Miami da lei, caro Mian. Veniteci a trovare. Ma io vo molto volentieri. Fino alla prossima settimana sono qua. Guardi, la mia ambizione nella vita è quella di fare una grande trasmissione radiofonica a Miami, in una casa però in realtà poi per cazzeggiare anche sull'Italia, da Miami, rinchiuso a Miami, in una casa a Miami, dove però poi una villa bellissima, tutto uno studio radiofonico approntato a Miami. Tutte le donne cubane, ma perché queste donne cubane? Sei fissato con queste donne cubane? È fissato? Esuli. Scusi, ma anche i soldi anche queste quote dell'unità sono intestate al cane Günther? Ma come il cane? Sono intestate ad una società che si chiama Günther Reform Holding, che è una società di diritto italiano, quindi completamente italiana, e che è, diciamo, ovviamente posseduta da una fiduciaria, come diciamo regolano le leggi del rimpatrio, le leggi di permanenza. E chi è il... Quindi la società a nome del cane, sicuramente sì. Ah, il nome del cane, però non è che è intestato al cane, diciamo. No, non può essere questo. E non si può intestare ad un quadrupede delle società. Il cane può essere Peccato. Un presidente onorario, può avere una fondazione o può avere un tutore, un caretaker, come sono io, che fortunatamente mi è capitato di essere... tutore di questo cane molto bene. Scusi Mian, ma lei verrà in Italia a votare le primarie del Partito Democratico? No. Ah no, non gliene frega niente, è azionista dell'unità. Onestamente non faccio parte del Partito Democratico, lo sono con la mia passione, però non faccio politica, mai stato iscritto a partiti. Ma la legge è l'unità. Scusi un attimo, la legge almeno l'unità o no? Almeno la legge ogni tanto no. Diciamo che la leggo spesso, però per il resto mi fido di Claudio Sardo, che è una persona bravissima. Non la legge mai. La leggo il 50% delle volte. Vabbè, adesso sta dicendo così giusto perché editore. L'ultima volta che l'ha letta, quando è stato? Qual è il titolo di oggi? Il titolo di prima pagina di oggi, qual è? Ma come fate a capire tutto voi? Non la legge mai, Mian, lo dica chiaramente. Andiamo avanti. Non la leggo mai. Dai, ovvio. A copie... la leggo poco. Parenzo però, lei è di sinistra, no Parenzo? Più o meno sì, più o meno è di sinistra. Mi difenda un po', perché se no qui come facciamo? Ma perché lei è di sinistra, Mian, scusi? Ma quando mai? Sono di sinistra. Sì. Sono diventato di sinistra dopo la caduta del muro. Prima ero di destra, prima ero reganiano, tacceriano, anche forse cristiano. Però dal 90 in poi ho pensato che i veri muri non sono più a sinistra, ma sono a destra. C'è il muro della conservazione, il muro della famiglia, il muro di. Che sono quelli. Il Vaticano, eccetera. Faccio un tifo disperato per Obama. In America fa tifo per Obama. Comunque non viene in Italia a votare. Scusi, però lei è il principale azionista dell'unità, diciamo. No, non viene a votare per le primarie, è una cosa scandalosa. Scusi, non va a votare per le primarie, signor Mian. Su. No, non voto per le primarie. Sono sincero, non voto per. Ma le per chi primarie. Se andasse a votare, per chi voterebbe? Dica la verità, Anche qui mi fido. No, io non ho sentito, scusi. Se dovesse decidere di votare per le primarie, chi voterebbe? Bersani o Renzi? O Bendola? Non ho nessun problema, Bersani. Bersani sicuramente, perché diciamo perché lei è pisano, perché lei è pisano. Non faccio parte, diciamo, del partito come anche per non dare loro degli imbarazzi. Però diciamo che io credo che Bersani è un'ottima persona. Ottima persona, un grande tecnico, mi sembra che sia la persona giusta in questo momento per l'Italia. E perché non le piace Renzi? No, non ho detto che non mi piace Renzi. Anzi, Renzi credo che sia una persona ingambissima. Credo che sia una, credo che tutti dovrebbero lavorare come fa il Partito Democratico americano. Ma lei lo voterebbe? Come tutti, c'è a destra. Ma il Partito Democratico lo voterebbe in Italia o no? Sì. Assolutamente sì. Ah, assolutamente ecco. Mancherebbe pure diciamo questo. Diciamo che io sono radicale, attenzione. Io sono sei anche radicale. Candidato per i radicali, sì. Sono stato candidato, Marco Pannella è un mio è un mito, Marco, grandissimo Marco, bravo, caro amico. Bravo. Però diciamo sicuramente voterei il Partito Democratico. Scusi, ma Bersani ha sbagliato con Serra a dargli il bandito, sì o no? A Davide Serra, quello delle Cayman. Ma Bersani sa quello che fa. Io questa frase che lei mi dice bandito non l'ho sentita. Non credo che Bersani l'abbia detta in questi termini. Non credo. Beh, insomma, quelli della finanza, con quei banditi della finanza non si parla. Il senso era quello, su. Forse ha un po' esagerato. Io sono un grande estimatore di Bersani, questo, insomma. Lo sappiamo, lei è un grande estimatore di Bersani. Devo dire che questa volta forse sul problema anche degli scudati, sul problema del perché il Partito Democratico, come il vecchio Partito Comunista, era un partito internazionalista. Questa vena di nazionalismo che c'è anche nella finanza, nel capitale, non credo che sia positiva per la politica. Viva gli scudati, dice lei, viva gli scudati. No, assolutamente no. Siamo persone cioè come si possono altri, prendere i soldi si possono prendere i soldi dalle società con sede alle Cayman, sì, tranquillamente, se è tutto legale, no? Secondo me sì, dovrebbe essere così. Allora, Amian, un attimo solo, dell'economia internazionale. Certo, il partito si deve più aprire, lei dice, bisogna essere internazionali, non bisogna essere troppo, no, sui soldi, non bisogna essere troppo moralisti. Ricordo bene anche la vecchia tradizione del Partito Comunista era ma quelli pigliavano i soldi dall'Unione Sovietica, insomma. I soldi li hanno presi, diciamo, tutti, certo. Un po' tutti. Un attimo solo, Mian, in collegamento da Miami, insomma, un grande protagonista, 37% dell'unità, questo signore, un personaggio che ha una storia incredibile, le quote intestate col nome del cane, è stato presidente del Pisa. Eccoci qui, 800 24 00 24, voglio andare a Miami. Parenzo? David? Dove diavolo sei? In bagno. No, ma che in bagno? Quale in bagno? Sono in bagno un attimo, non si può neanche andare in bagno. Ma è un secondo, abbiamo un collegamento da Miami fondamentale, importantissimo. Ma io chiamo i sindacati, ma mi stava scappando la pipì. Avrei il diritto di andare. Ma perché adesso si sente strano? Si sente. Dove diavolo sei? Si sente perché male? Sono nel bagno del. Ecco, senti, lo senti questo rumore? Fammi sentire lo sciacquone, avanti. Voglio la prova. Ecco. Lo senti? Sì, ma adesso sei in viva voce, che c'hai? Sto mettendo la testa dentro. No, ma sei in viva voce, sei in viva voce. No, ho messo un attimo in viva voce perché sto mettendo la cravatta, perché poco fa, aspetta che esco allora, perché poco fa c'era dentro al club qui dove sono... Sì, ma togli sto viva voce, dai, su. Sì, l'ho tolto, ecco, sì. Dentro il coso degli aerei c'era un grandissimo manager che tu però ti sei fatto sfuggire perché sei andato... Ma non ci sono lì, come faccio a farmi sfuggire? C'era il grande Franco Tatò. E vabbè, pazienza. Che è un grande ascoltatore della Zanzara, ha detto: guarda, quel Cruciani è un cretino, perché che ci devo fare? Dice: bravo, salutami tutti. Dice, ma quel Cruciani, dico, cosa vuoi? Ma quel Cruciani, diceva il signor Tatò, quel Cruciani. Dice, ma perché, signor Tatò? Ma quel Cruciani. Vabbè, insomma, non vuoi dire, non, sicuramente dormirò questa notte. Dormirò. No, non è vero. Comunque, il nuovo coro è questo: oh Mian, portaci a Miami. Portaci le cubane. Ma perché le cubane? Che sei, come sei volgare, perché cosa c'entra? Dobbiamo fare un'inchiesta sulle esuli cubane. Scusi un attimo, Miana, lei mi diceva prima che c'è un teorema sulle donne particolare. Qual è la storia? No, che il progetto di Gunther, il progetto del cane Gunther, per cui è stata lasciata questa idea a questo cane. Era alla fine un entusiasmo animalista, Però poi la fondazione si è dedicata a ricerche proprio sì. sulla felicità, sul modo migliore di vivere, sì. e non poteva farlo solo dei cani, e quindi si sta occupando di esseri umani, diciamo, ricerca della felicità sugli esseri umani. E sulle donne qual è la cosa? Stiamo facendo un lavoro che presto insomma ne vedrete delle belle, diciamo. Beh, ci anticipi qualcosa sulla felicità, le donne, eccetera, eccetera. Una chicca ci dia, signor Mian, lei che è azionista dell'Unità. Beh, diciamo questo, che la felicità è più comune fra le donne belle che le donne brutte, gli uomini belli che gli uomini brutti. La ricchezza è anche importante, perché quanto più c'è ricchezza, tanto più si può essere tranquilli, e quindi godere del proprio edonismo. E poi la cosa più importante è non avere famiglia, vivere promiscui con figli che vengono da rapporti naturali, e tutto questo finanziato da qualche società che deve curare il benessere, deve curare... Scusi, cioè la cosa migliore è vivere promiscui? Non soltanto, assolutamente sì. La promiscuità, la promiscuità. Ma cosa dice? Come il resto i cani. I cani non hanno una moglie, non hanno una... Cioè, tutti gli animali, è soltanto l'uomo che si fa una famiglia, che ha una sola donna, che ha una sola coppia. E questo è stato bello e necessario negli anni passati. Però ormai... Il futuro non servirà più. In futuro bisognerà organizzare diversamente le aggregazioni familiari, cioè, quindi gestire un po' i rapporti, dice? Così come li gestiscono i cani campioni, i cani agonisti. Beh, io voglio Mian editorialista fisso alla Zanzara, fisso, la teoria della promiscuità, cioè il futuro è la promiscuità, cioè uno può avere figli, diciamo, da 3, 4, 5 donne, questa è la sostanza. Sì, un po' come fanno i poliamori americani, però un po' più aggregato, un po' più come il libro 50 sfumature di rosa, no? Sì. Che fissa un contratto nel rapporto fra un uomo e una donna. Sì. Ecco, qui ci dovrebbero essere dei contratti nuovi, sì. chiaramente attenzione a fare le cose nella legalità, che è molto importante. Chiaro. Ma contratti nuovi nei sì. rapporti, così come ci sono fra i cani, dove sì. tutto è misurato, sì. nel senso il cane agonista, bello, campione, va certo. con la femmina del campionesse, eccetera, eccetera. Così un po' dovrebbero farlo anche degli uomini e delle donne, per trovare un campione sperimentale sì. di modello di felicità. Togliere le persone, alcune persone della società, e studiarle. E togliere che significa? Toglierle per farne delle cavie, diciamo, no? Esatto. E le persone malate, le persone che nascono con dei difetti, come si fa? Bisogna curarli, la prima cosa è la cura. Io sto dicendo che questo viene dopo che si è pensato. Io sono stato un ricercatore per 40 anni, sì. dopo ho cominciato a occuparmi della felicità. Ho studiato sì. il cancro, ho studiato l'osteoporosi, ho studiato tutte le malattie. Dopo mi sono consentito il permesso. Scusi, quelli brutti, lei dice, quelli brutti come fanno? Lei dice quelli belli, cioè quelli brutti e diciamo anche un po' fisicamente non come fanno nella vita? Sono sfigati per sempre, dice lei. Bisogna comunque farli partecipare al circo della felicità, al circo mediatico che è intorno a questa felicità. Quindi questi ragazzi, queste persone sì. che stanno vivendo in questa maniera, dovrebbero andare in televisione, dovrebbero essere più comunicati. Scusi un attimo, non si deve parlare soltanto di cose brutte, di fallimenti economici, di cronaca nera, no. Occuparsi anche di felicità, perché è molto importante che con le future risorse, che saranno un po' meno di quelle che ci sono oggi, probabilmente sì. dovremo fare un po' le nostre con i fichi secchi. Scusi, ma lei la promiscuità, la pratica, Mian? Ma che ci fa l'Unità, Mian, scusa? Alla fine purtroppo ho finito per praticarla anch'io, ma adesso non pratico più niente, adesso studio e basta. Ho 56 anni, mi sono messo tranquillo. Beh, a 56 anni non è che uno ha finito con le donne nei rapporti. Appunto. Quasi. Comunque l'ha praticata pure lei. A un certo punto ha deciso basta monogamia, basta rapporti, diciamo, con una sola donna, promiscuità, giusto? Cruciani, ho fatto del mio meglio. Ma Berlusconi, come lo vede lei? Scusi, come l'ha visto in questa storia delle donne, eccetera? Uno scandalo oppure? Senta, a me Berlusconi, devo dire, lo ammiro tanto. Quando c'era Colombo all'Unità, perché io sono all'Unità da 10 anni, quando c'era Colombo Furio, l'amico Furio, quando sì. c'era l'amica Concita De Gregorio, sì. Lo hanno tanto criticato. Io gli dicevo: beh, andateci piano. Fortunatamente ora l'unità è più tranquilla con Sardo. Ma come si fa a dire andateci piano? Un grandissimo manager. È una persona capace a fare tutto, capace a fare il calcio, capace a fare televisione, sì. capace a fare imprenditoria, capace a fare politica, tutto. È un genio. Non c'è niente da dire. Ma questo all'unità lo sanno che lei la pensa così? Lo sanno. Scusi, ma è stato... Naturalmente io sono un avversario politico, un avversario leale di Berlusconi, devo ammettere che è troppo più bravo di noi. Troppo più bravo. Scusi un attimo, ma io voglio capire una cosa, ma era meglio lui al governo? Era meglio lui di Monti al governo? Crociani, gli devo mettere dentro la... No. Devo essere sincero, a questo punto, in quel momento, così come in Grecia, così come in Italia... Era meglio il governo tecnico. C'è stata una volontà comune europea di portare governi tecnici. Sì. Monti, anche se ci ha fatto pagare uno stonfo di soldi sui due giurati, però è una persona brava, è una persona sicuramente l'uomo giusto per questo momento. Però meglio Berlusconi di tanti di a sinistra, no? Cruciani, perdonami un secondo, aspetti un attimo, Mian. Devo mettere dentro il rullo che fanno i controlli per passare il nell'area, diciamo, ristretta. Ti devo mettere in diretta per qualche secondo nel rullo, dentro il rullo dei controlli dell'aeroporto, se lo sapessero quelli dell'aeroporto. Però c'è un grande ospite tra poco qui, che fra poco. Mian, scusi un attimo, è meglio Berlusconi di tanti leader di sinistra o sbaglio? Diciamo che Berlusconi è ottimo. Di sinistra mi preferisco, però. No, ma lei stava dicendo una cosa. Mian, meglio lui di Prodi. Diciamo la verità, meglio Berlusconi di Prodi. No. Io ho votato per Prodi. Ha votato per Prodi. Ho votato per Prodi, però devo ammettere, Berlusconi è stato un grande avversario. Un uomo eccezionale, diciamo la verità. Ma queste accuse sulle donne... Assolutamente sì. Queste accuse sulle donne, questo processo sulle donne, l'accusa di aver trasformato casa sua in un'area, ma lei come le vede, che è uno, insomma, da promiscuo? Il Bunga Bunga è stato un grande fenomeno mediatico, un grande successo mediatico. Direi un meccanismo in qualche modo scientificamente provato e che ha funzionato a livello mediatico in maniera eccezionale. Sì, però diciamo appunto... Non ho nulla da criticare a Berlusconi, alla Minetti, all'Ele Mora, a Fede, insomma. Mora e Minetti sono due amici, li conosco. Quindi non ho niente da dire. Anche la Minetti al Consiglio regionale, chi se ne frega, no? No, la Minetti è una... Onestamente è una persona in gamba, devo dire. La conosco personalmente. Poi la politica la so un po' meno. Però non stona al Consiglio regionale, a parte che fra poco è finita. Comunque. Assolutamente no, ci sta no. benissimo. Scusi un attimo, ma è vero che lei voleva fare un reality con Corona? Sì, è vero, assolutamente vero. Ma su che cosa? Voleva mettere insieme appunto queste sue idee di promiscuità, cos'era? Esatto. Era, diciamo che anche Corona è una persona che ammiro moltissimo a livello mediatico, è ancora un grande. Ed è anche un bravo ragazzo, si è trovato in un mondo particolare, ogni tanto succede, mi sta succedendo anche a me in questo momento, si viene trascinati dentro situazioni così, però è una persona che ci siamo capiti e era d'accordo sul com'era questo reality? Poi il finanziere che ha scudato il capitale, che è un grande ospite qui. Chi è? Un attimo solo, Mian, che c'è un grande... Guarda, è un grande attore italiano che ho intercettato qui all'aeroporto. Sì. Ed è un regalo che ti faccio, una grande esclusiva, questo è un grande rinnovo a tempo indeterminato del contratto, quindi lo diciamo subito al... Io ho la pubblicità, però. No, quale pubblicità? Prima c'è un grande attore italiano, poi ti senti la voce, dopo la pubblicità facciamo un altro saluto. Lo devi riconoscerlo dalla voce, un grande attore italiano. Io non lo riconoscerò mai. Vediamo questo. Se mi dà una mano Mian da Miami. Viva l'Italia, però te lo passo, in diretta esclusiva alla Zanzara. Viva l'Italia e viva la Zanzara. Viva l'Italia, viva la Zanzara. Viva la Zanzara da Alessandro Gassman.

creano delle coppie e praticamente si decide qual è il miglior partner possibile, quali sono i migliori partner possibili, e praticamente ci si fa una storia. Non è tanto, è una cosa molto simile a uomini e donne. Se devo dire un'altra persona che ammiro tantissimo, chi è la De Filippi, così consentitemi di farlo, è veramente per un carità, genio per carità della televisione internazionale. Comunque diciamo che questi ragazzi vengono praticamente addestrati a un certo tipo di modo di vivere, naturalmente piace anche a loro, ne sono consenzienti. Ecco, ma qual è il modo di vivere, Mian? Molto sport, molto studio, la cosa principale poi, è che queste persone devono cercare di diventare imprenditori, imprenditrici, devono cercare di far andare bene la loro finanza, la loro economia e quella del mercato e quella del mondo. Perché per godere la vita, per poter godere una certa forma di edonismo, bisogna essere protetti dal punto di vista. Ma l'edonismo significa niente famiglia allora? Beh, questo è una mia estrapolazione. Assolutamente sì, il vero edonismo deve essere libero. La famiglia è un vivendo un troppo, bisogna vivere troppo, sessualmente troppo e socialmente la promiscuità, anche sessualmente, cioè non ci deve essere più quelle anche socialmente, Esatto. Assolutamente, una cosa di sinistra, signor Mian, una sola, una cosa di dica sinistra. Una cosa di sinistra, Mian, dica una cosa di sinistra. No, ma diciamo. Ma questo è molto di sinistra. Questo è molto di sinistra. Deve essere, diciamo, una cosa radicale. Ci deve essere veramente dei nuovi schemi, e quindi tutta la conservazione dal punto di vista della morale deve essere modificata. Scusi, però, Mian, ma lei è tutto tranne che di sinistra. Diciamola tutta, Mian. Su, andiamo. Io una volta ero di destra, poi la destra si è spostata a sinistra e la sinistra è venuta da me. Credo che in questo momento, dal punto di vista della morale, se pensiamo... Lei però resta reganiano, no? Se pensiamo che Romney qui in America ha detto che le donne, insomma, ha parlato male delle donne emancipate, delle donne femministe. Obama l'ha difeso completamente. Sul tema dei matrimoni omosessuali io sono assolutamente favorevole. Figuriamoci. La morale familiare deve essere la morale per tutto quello che riguarda i commenti sul sesso, persino il sesto comandamento, il nono comandamento, devono essere rivisti, non funzionano più. No, per carità, oggi non hanno più nessuna cosa. Ma non è che lei ammette anche il sesso con gli animali, cose di questo tipo, no? Per carità. Leviamo ogni volgarità. No, per carità, certo. Non si dimentichi che alla fine ero uno scienziato. Mian, la ringrazio moltissimo. Io che ringrazio voi, grazie. Grande, uno degli... mi raccomando. Veniamo subito a Miami, uno dei grandi editori dell'Unità, 37%, capitali scudati, eccetera, eccetera. Arrivederci a tutti gli spettatori. Ciao, grazie. Con quei capitali scudati, eh? Renato da Bergamo. Gramsci, giornale fondato nel 1924. Ma chi se ne frega. Ma che esclusiva ti ho regalato stasera, però? Beh, sì, mi ha regalato uno scoppettino. Adesso insomma, una chicchetta. Renato da Bergamo, buonasera, signor Renato. Sì, ci sono. Vada. Ci sono, buonasera a tutti. Vada. Io volevo tornare all'inizio della vostra apertura, quando Parenzo mi ha parlato di questo prosecchino. Assolutamente. Sì. Il prosecco è una DOCG, è un vino che ha la sua taratura, è diventato un grande vino. Non possiamo limitarci, non dobbiamo più farci sentire nemmeno la radio a dire un prosecchino. Vabbè, adesso non esageri, è un modo di dire di Parenzo. No. Certo, ma molti purtroppo lo dicono anche quando... li incontro ai miei corsi, ma cos'è questo un prosecchino? È brutto, il prosecco è un bel vino e io non sono veneto, quindi non ho parte in causa, però mi piace sottolineare questa piccola cosa. E poi un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che il coppiere, che era un grande uomo ai suoi tempi, è stato quello che oggi è il sommelier di quei tempi, era il coppiere che era... Sì, però è sempre uno che serviva, assaggiava anche in alcuni momenti. Assolutamente, era la persona di fiducia del re o comunque della regina, era lui che assaggiava i vini e che dava poi la giusta misura di vino e acqua, perché comunque eravamo un servitore, era sempre servitore, era, e comunque eravamo sempre in un regno, in un impero, cioè eravamo sempre in una situazione di tipo imperiale, no? Dove c'era un imperatore, un re servito poi dai coppieri che assaggiavano anche per capire se c'era del veleno o no dentro il cibo, e magari crepavano pure, cioè qua non era proprio assolutamente sì, assolutamente vabbè, sì. Ho capito, ma sai, il paragone, ma era un grande, era prestigioso essere il coppiere, sì, della sì, comunque. Però insomma abbiamo sentito prima la De Girolamo che diceva certamente non in un'accezione positiva, insomma i coppieri, ecco. Meglio amazzoni che servitori, cioè gente che, ecco, io invece volevo proprio sottolineare che il coppiere era comunque un bel servitore. Grazie Mauro, sempre da Bergamo, buonasera. Poi abbiamo Brindisi e Novara, tante altre città ci chiamano. Mauro. Sì, buonasera Cruciani. Vada. Io volevo intervenire in merito alla dichiarazione della Fornero. Sì, ma guarda, io posso essere d'accordo con lei quando dice io sto con la Fornero, ma bisogna considerare che... al 200% anche aggiunto. Certo, ovvio. Sì, però il problema è che ha detto una banalità stratosferica e quello che fa arrabbiare la gente, secondo me, è stato il fatto che l'abbia detto un ministro. Cioè, un ministro, ma qual è la banalità? Scusi, qual è la banalità? Ma è una banalità, ma è ovvio, è naturale che comunque un giovane, se non trova lavoro, sia contento del primo lavoro che gli capita sotto mano, ma questo già accade. Basta aprire semplicemente degli annunci di lavoro e vedere quante offerte di lavoro ci sono. Giovani, ma parlo di giovani, 22-23 anni, si adattano a fare di tutto, gli occhi di tutti. Ma questa è la successiva dichiarazione della Fornero a correzione della prima, perché poi naturalmente non si può essere perfetti, e certo. Si dice una cosa e poi la si smentisce perché è stata, perché magari è stata attaccata. Voleva dire, il sottotesto di quella dichiarazione è che spesso ci sono un sacco di lavori che i giovani italiani non vogliono fare, e dunque bisogna acchiappare la prima opportunità. Ma è così, non è la realtà dei fatti, però, cioè la realtà dei fatti è un'altra, che i giovani devono portare a casa la pagnotta, perché noi siamo gente che ci si fa un mazzo così, quindi il problema è tutto lì. Vabbè. Stiamo parlando di queste robe qui, non stiamo parlando d'altro. Bene, grazie Gianni da Milano, buonasera. Buonasera, senta, io chiamo per dire che voglio bene a Parenzo come se fosse normale. Cioè, in che senso, scusi? Nel senso che è un cretino, mi scusi di dire, ma è troppo un pirla a volte. Sì. Senza offesa, senza offesa. No, senza offesa lei è un cretino, ma senza offesa. E beh, allora siamo in due. Rida, cretino, senza offesa, ancora una volta. Cretino senza offesa, rida pure. Cretino senza offesa, rida. Cretino. Ma io continuo a volerle bene come se fosse normale, comunque. Abbracciatevi su. Ma io la bacio, io sto cretino senza offesa, lo però, poveretto. Caro Parenzo, sembra che torni Forza Italia. Ma perché sei così contento? Ma mi entusiasmano queste cose, il ritorno di Forza Italia, il partito di Berlusconi, le amazzoni e poi gli ex AN che se ne vanno. C'è vita, c'è vitalità, c'è Casino, c'è la Zanzara. Salire sull'aereo, hanno già aperto il gate qua, come si fa adesso? Sali, che ti devo dire, intanto sali. No, aspetta, non puoi dire che si blocca tutto. E che devo fare? Far bloccare l'aereo? Vediamo se riusciamo. Un falso allarme bomba così ci arrestano, non ho capito. Cioè. È possibile ritardare la partenza del volo per Roma, secondo lei? Non crede. No, mi stanno andando tutti malissimo, infatti. Sono girati tutti malissimo. Con David Parenzo all'imbarco del volo Milano-Roma. No, che Milano-Roma? Milano-Tokyo. Ma che Milano-Tokyo, sì, Milano-Tokyo. È più bello. Milano-Tokyo è più bello, Milano-Roma è una roba banalissima, comunque sì, Milano-Roma. Mariano Apicella, musicista, come sapete, intervistato oggi dal Corriere della Sera. Aspetta. No. La casa che mi ha comprato Berlusconi? Sa qual è la verità? È che siete tutti divorati dall'invidia. Sì, perché di quel santuomo di Berlusconi intendo vorreste essere tutti amici. E invece guarda un po', quello è amico mio. E mi vuole pure bene, tiè. Lei pensa forse che io, siccome mi è stato comprato quell'appartamento, sono poi andato in aula al processo a raccontare il falso? Io in tribunale ho detto la verità. Finché io stavo sveglio e non me ne andavo a letto, lì ad Arcore non succedeva niente di scabroso. E suppongo non succedesse neppure dopo. E tu mi chiedi perché sono contento? Siamo il grottesco, siamo il grottesco proprio. Viola da Milano, si chiama come mia figlia, dunque ha già una un qualcosa in più. Dica. Però 60 anni. Vabbè, ho capito. Quindi posso essere sua nonna, non sua figlia. Vabbè, ho capito, questo adesso non volevo, okay, non volevo mica insultarla. Brevissimo, la dichiarazione della Minetti, che è tanto cara, che è tanto brava, che sta imparando. Scusi, noi non abbiamo bisogno di un consiglio regionale di apprendisti. Cioè, io vorrei chiedere alla signora Minetti, se lei deve andare da un chirurgo, va uno di tanto giovane, tanto volonteroso, che sta imparando, o va da uno che ha imparato? Solo questo. Ma non che abbiamo cosa? Bisogno di apprendisti nel consiglio regionale. Vabbè, ma questa è una polemica vecchia, Viola, ormai questa storia qua so, è finita. Però mi fa incazzare come una biscia, lei me l'ha rimandata in onda. Lei è tutto finito ormai, ma se non è adesso, è fra poco, è tutto finito, Ma quelli sono come i morti viventi, ritornano sempre. Lei dice, la Minetti effettivamente oggi in questa intervista dice di volersi ricandidare, ma prendendo i voti, adesso può darsi che i voti li abbia la signora Minetti, non è escluso. Lo credo. Ha delle credenziali, insomma. Ma no, ma al di là di questo, la notorietà porta anche potrebbe portare dei voti, certamente ha più voti adesso di quanti non li avrebbe avuti nel 2010. Enrico da Brindisi, buonasera Enrico, grazie Viola. Enrico. Buonasera. Ti saluto Gasman, Sì, vabbè, abbiamo già salutato, saluta anche. Sì, no, Gasman si è imbarcato, adesso io sono qui in diretta, mi stanno controllando il biglietto, pare tutto a posto. Sì, ma intanto puoi parlare, non è che non puoi parlare. Posso parlare tranquillamente, posso anche passarti una hostess all'Italia se vuoi. No, vabbè, una hostess all'Italia, no. Ma chi ti vuole salutare, è una fan della nostra trasmissione, te la passo subito. Ma è vero? È vero? È vero, è verissimo. Non mi fare... Si chiama Ilaria. Signora Ilaria. In diretta a Zara, signora Ilaria. Ilaria. Che voleva anche salutare il signor Colaninno. Ma non è vero. Pronto, piacere, sono Ilaria. Buonasera Ilaria, ma è vero che lei ascolta la Zanzara? No, non è vero, si è inventato tutto Parenzo. No, ma lo sa che è una cosa, nella prossima, cioè quando faranno gli esuberi all'Alitalia, tra poco, metterà... Ma io sono anni che non ho un contratto in Alitalia, quindi io sono la prima ad uscire, anzi il 31 ottobre, finirà il mio contratto. Finirà il suo contratto. Non mi pongo il problema. Lei è proprio pacifica su questo. Tanto sa che il 31 ottobre. Sono pacifica, ormai ho perso le speranze. Ha perso le speranze. Certo che sto Colaninno dovrà risolvere l'Italia. Invece, Davvero, guarda. Invece, un disastro ha fatto. Un disastro. Un disastro. Come si chiama di cognome lei? Che la segnaliamo subito al personale dell'Italia? Sto scherzando. Questa facoltà. Sto scherzando, naturalmente. Stiamo scherzando. Signora Ilaria, mi tratti bene Parenzo, lo faccia mettere in una zona un po'. Una zona particolare dell'aereo. Avanti. Ma è pieno l'aereo? Avanti. È pieno l'aereo? No, non è pieno. Quest'ora non è mai pieno. Non è mai pieno, purtroppo. Anche quello è il problema. No. Scusi un attimo, ma lei è una delle classiche hostess, cioè molto belle, oppure un hostess così normale? Ma io non posso giudicarmi da sola, anche perché sono abbastanza modesto, te lo faccio dire dal suo collega. No, ma così è una curiosità, perché ogni tanto mi interrogo su questo quando mi imbarco, le poche volte che io... Anche se non sono bella potrei essere intelligente. Assolutamente, sì, assolutamente. No, ma anzi, spesso la signorilità, il modo di comportarsi è più bello, per quello che serve di più per quello che riguarda un hostess della bellezza, questo assolutamente. Certo, ma lei la bellezza forse non è tutto se non sai parlare. Assolutamente. Non sai... Assolutamente. Non fare un ragionamento, insomma, ma secondo lei la signora Minetti potrebbe fare l'hostess dell'Italia? La signora Minetti. Come no? A voglia. Così agganci che c'ha, voglia. Questo non è indeterminato, glielo farebbero subito a lei. Subito a tempo indeterminato la Minetti, immediatamente. Subito a tempo indeterminato. Ma lei preferisce prendere il treno o lei? Lo prende ogni volta, ogni tanto il treno? No, il treno non lo prendo mai. Non lo prende mai. Sto lavorando per l'Italia, ho la possibilità di viaggiare gratis. Gratis. Sfruttiamo in questi Ma ancora esiste questo privilegio? Questo privilegio esiste ancora? Ma diciamo che è l'unico privilegio, anche perché, ripeto, non ho un contratto fisso e ogni contratto mi sbattono da una città all'altra. Quindi ho vissuto a Venezia, Napoli, Trieste. Vabbè, non si lamenti, però. Biglietti gratis, diciamo che quella mi sembra il minimo. Mi sembra il minimo, esatto. Va bene, signora Ilaria, grazie. Non la vogliamo mettere ancora in difficoltà, per carità, con i signori dell'Alitalia. Comunque, Ilaria, hostess sul Milano. Io ho parlato, ma... Cruciani, La Zanzara, Radio 24. Allora, la cosa fondamentale da capire è questa. Allora, la signora Ilaria è un hostess dell'Alitalia. Le scade il contratto il 31 di ottobre. Signor Colaninno, vogliamo fare qualcosa? Oppure no? Ecco, facciamo un appello. Grazie. Grazie. Facciamo qualcosa, Ilaria. poi, poi farà, naturalmente riferiremo a chi di dovere, eh. Queste sono storie vere, raccolte, come vedi, con inchieste sul territorio. Grandi questa inchieste. È l'Italia che deve parlare, non quei quattro stronzi che fai sempre, che facciamo intervenire sempre, scusa. Ma scusa, no, come quattro stronzi? Rispetto. Ecco. No, ma voglio dire, spesso si invita, no, cioè, il divino, adesso non è lui tra gli stronzi, il divino, qual è l'utilità del signor Hotel, perché tu continui a chiamarlo ma divino, Hotel, ma non, senso, non è mai ospite della Zanzara, perché è ospite di un'altra trasmissione. Tu lo chiami divino, ma una volta l'anno viene qua, una volta l'anno, e litiga con te. Ma però voglio dire, se ne sente anche, non se ne sente il bisogno. Ad esempio, questo spaccato di paese reale di una lavoratrice dell'Italia, sì, con contratti precari, cioè queste sono storie che meritano di essere, ma quali di storie, essere raccontate. Ma questa rideva, vita, questa vere, rideva sul territorio, ma rideva questo con grande tratto pasoliniano, con penna appunto che è vicina a chi è ultimo, ecco. Chi è ultimo? Adesso non è il caso della signora, che non è e ultimo. Sei diventato telese, sei diventato telese. Sì, telese, esatto. Chi è ultimo, esatto. Enrico da Brindisi, buonasera. È partito il pulmino intanto, questa è la notizia. Vabbè. Allora, è partito il pulmino. È partito il pulmino. Notizia. Pronto, buonasera. Buonasera, buonasera. Io ho ascoltato la lunga intervista fatta a Mian e mi chiedo... Cioè, avrei una proposta da fare all'Unità, quella, sì, di ridimensionarsi un poco, magari di andare per un periodo online, sì, di rinunciare al 37% del capitale di questo, beh, rifiuto, diciamo, di questo rifiuto umano, diciamo. Chi ha detto? Certo. Rifiuto umano sarà lei, Enrico, scusi. No, io non sto parlando di lei, sto abbia parlando pazienza. Di Miano, allora, se vuole parlo anche di lei, che anche lei più o meno si avvicina abbastanza. Ah, sono un rifiuto umano, dunque, come Miano sono un rifiuto umano. Certo. È bravo Enrico. È bravo Enrico. Hai esordito bene. Suggerirei all'Unità di ridimensionarsi, sì, un po' e di... E perché? Cosa ha detto di strano il signor Miano? Mi dica. Ha detto di normale il signor Mian, ha detto che Corona è un bravo ragazzo, cosa dobbiamo dire altro? Ha detto che Berlusconi è stato un grande, beh, cosa? Effettivamente. Cioè, forse anche lei Cruciani avesse, sì, avuto i mezzi partendo dagli anni, sì, 50, no? Sì. I mezzi che ha avuto il signor Berlusconi, anche lei sarebbe stato più grande, perché la reputo più intelligente di Berlusconi. Vabbè, Enrico, poi questo fatto di personalizzare la forza di Berlusconi come l'unica persona. Berlusconi era la punta di diamante di tutta un'organizzazione che stava dietro, tutto qui. Non è che Berlusconi è stato un genio, sono stati, vabbè, gli altri, Enrico, che non si metta a confutare le frasi di Mian. Lei ha fatto orrore questo intervento dell'azionista Mian al 37% possiede l'Unità. Suggerirei all'Unità di andare online per 2 anni, 3 anni, per dimensionarsi un po' e rinunciare al 37% di finanziamento di questo. Qui chiudo, ecco. Grazie Enrico. Poi, no, un'ultima cosa a dica. Della, sì. Sì, a proposito della Fornero, dovrebbe stare semplicemente zitta, perché può fare la ministra, sì, possiamo sopportare l'idea che sia una ministra preparata e tecnica, fa niente, però andare in cattedra, sì, e dare lezioni ai giovani quando ha una figlia diretta, che ha avuto, però, scusa, e non è che la figlia lavora nell'università, come ha detto all'inizio caro Cruciani, la figlia lavora nella stessa università, ma abbiamo già detto su questo, padre, abbiamo già detto, Tornero, non può dare, non Parenzo, può stai zitto un attimo, Enrico, chi mi vuole salutare? Sono sull'aereo, sull'aereo, ti vuole solo dire ciao Podestà, presidente della provincia. Beh, siamo Podestà, come no? Siamo Podestà. Aspetta che te lo passo, perché è una grande esclusiva di oggi, Ciao. Sì. Pronto. Oh, il signor Peter Sellers, il Peter Sellers del centrodestra. Dove andiamo? Come sta? Come sta? Tutto bene, tutto bene. Come andiamo? Questo PDL ormai è finito, è morto, Morto, siamo, sì, morto questo PDL. Si lotta come leoni. Ricordiamoci dell'araba fenice, tutte le volte muore poi risorge. Beh, questa è una bella cosa, è una bella cosa. Senta, siamo Podestà, vogliamo fare una cosa nei prossimi giorni? Che dice? Con grande piacere. Beh, grande Peter, il Peter Sellers del PDL, grande, uguale, identico. Andate a guardare Peter Sellers, sì, siamo Podestà, presidente della provincia di Milano. Peter Sellers, beato lui, aveva 20 kg di meno. Dai, lei dice? No, ma l'ho visto una volta qui sul Naviglio a Milano, mentre non mi pareva così ingrassato. Però insomma, viva Peter Seller. Viva Peter Seller. A presto, presidente della provincia di Milano, sarà ospite presto alla Zanzara. Formigoni, quando si deve dimettere? Le elezioni, quando vanno fatte? Formigoni non posso più parlare perché mi chiamano. Ma quando si deve votare? Adesso o ad aprile? No, alla fine sarà aprile. Alla fine sarà aprile, ma lei fa il tifo per aprile pure lei, eh? No, non è che faccio il filo, prevedo. Prevede, sì, prevede, prevede. Vabbè, grazie, okay. A presto, grazie. A presto, arrivederci. Allora, chi c'era? Enrico, su. Sì. Sì. Cosa devo dire? Che cosa devo dire altro? Ha detto tutto, Fornero. Benissimo. No, no, la Fornero ha già detto, sì. No, lì forse vuole scappare. La Fornero sa che la figlia, cioè la figlia è entrata nella stessa università del padre e della madre. Sì. Non è che va ad insegnare in un'università qualsiasi. E poi il doppio lavoro della figlia della Fornero riguarda altri personaggi come Francesco Profumo. Che quando era guardi sulla Fornero e sul clientelismo universitario allora, abbiamo allora, già Luciani, dato però non è che ogni volta io. Si deve mettere in campo questo per parlare delle, delle... allora la Fornero la smette di dare lezioni di vita ai giovani, va bene? La deve smettere. Gente che ama e che lotta, che spera e che crede nella libertà. Parenzo, forse te lo sei dimenticato. Ci sei? Come no, certo che ci sono. Forse te lo sei dimenticato, ma qualcuno aveva composto un inno per la nuova Forza Italia, per il nuovo PDL, quello che doveva essere, te lo ricordi? Come dimenticare questa roba, questo inno alla gioia, diciamo, come dimenticarlo? Lotta sempre per la verità, e questo è il popolo della libertà. Damiano Mariani, buonasera. Buonasera Cosciani, buonasera Parenzo, come state? Andiamo? Mi sento in forma, mi sento. Beh sì, siamo in grande forma, devo dire siamo in grande forma. Senta una cosa, le chiedo subito direttamente, questa casa di Sarteano, che è stata comprata da Berlusconi, qualcuno dice è stata comprata da Berlusconi per comprare anche, scusi la ripetizione, certo, della parola, il vostro silenzio, lei il suo e quello di Apicella, sulle famose notti del Bunga Bunga. Allora, mi dica subito. Devono dire qualcosa contro al presidente, come sempre, quindi giustamente devono andare a trovare che noi siamo venduti, che ci compra le cose per stare zitti. Invece sono andato in tribunale, ho detto quello che ho visto con i miei occhi e quindi l'ho detto ai giudici, basta, tutto lì. Cioè, senza. Scusi Mariani, però diciamo la verità, Berlusconi comprando questa casa a Sarteano, una casa mi sembra corridoio, cucina, bagno, due camere, sì, soggiorno, muri, c'ha le finestre, cioè, beh, è una casa. Quanti metri quadrati normale. È? Normale. Sono un centinaio di metri quadri. Centinaio di metri quadri. La stavo vendendo, io l'ho avuta in eredità da mio padre che è scomparso nel 2007, nel 2009, scusate. E sto facendo un'altra casa, come tutti si presume, nel senso sì. Che si ambisce, diciamo, a avere una casa un po' più carina, sì. E niente, il mercato purtroppo è fermo, ho chiesto una cortesia al presidente se mi comprava questa casa di modo che io potessi finirmi l'altra casa. Oltretutto questa casa comunque è comunque in vendita, andrà venduta comunque, il presidente si prenderà i suoi soldi che ha dato a me, diciamo, in una sorta di anticipo, anche perché di una casa a Sarteano dove sono tutti i comunisti non se ne fa niente il presidente, ovviamente. Quindi è già spiegato in modo semplice, è stata una specie di anticipo, di acconto, di aiuto, lui si rivende la casa, si prende i suoi soldi e niente, è finita lì. Quindi tutto. Però scusi un attimo, perché lei dice che non riusciva a venderla, dunque le ha fatto un gran favore da questo punto di vista. Beh certo, io ho chiesto una cortesia a lui perché avevo bisogno di questi soldi. Dunque non è detto che lui riesca a rivenderla, poi gli ha dato una sola in pratica. No, perché gli ho dato una sola, ho dato una casa vera, mica gli ho dato una. Ho capito, casa, però è una casa che non si vende, è una mezza sola. Non si vende, io avevo bisogno in quel momento perché se no ero fermo di là, quindi lui mi ha fatto questa cortesia, poi io non è che ha fretta di rivenderla, dice lei, di rivenderla, sì. Voglio dire, quindi se si vende. Quant'è il prezzo? Il prezzo quant'è, Mariani? Non glielo dirò mai perché queste sono cose private, quindi non è giusto dirlo. Vabbè, che c'entra? Di un appartamento di 100 metri quadri in un paesino toscano molto carino come Sarteano, insomma, Sarteano. I correnti non sono né gonfiati né sgonfiati, è un pezzo giusto, ecco, insomma. Qualcuno dice in questo modo lei poi è andato in tribunale e ha detto sulle feste, a parte che lo diceva anche prima probabilmente, ma comunque insomma le feste di Arcore sono andate in un certo modo. Ma scusate, e a parte con tutte queste cose del tribunale, i testimoni, ora il presidente ha bisogno di comprare solo due testimoni, solo me e Apicelli e basta, con tutti i testimoni che ci sono pro e contro, bisogna di comprare solo noi due, cioè veramente. Mariani, scusi un attimo, però essere amico di Berlusconi da questo punto di vista è un gran vantaggio, non è che si trova subito una persona. Certo, sono è una fortuna, sono onorato e fortunato di conoscendo, ho potuto chiedere questa cosa a lui perché fortunatamente è lui, ovvio, questo mica lo nego, però non è il caso di costruire tutta questa cosa che siamo venduti o che lui ha comprato il nostro silenzio, perché non ha comprato niente, anche perché questa cosa è nata anche già un anno e mezzo fa in tempi non sospetti. Scusi un attimo, Mariani. No, certo, però mi faccio capire una cosa. Dunque, la casa, l'atto della casa, quando è stato siglato? L'atto della casa è stato fatto a gennaio del 2012. Vabbè, adesso praticamente. No, un anno fa quasi. Ah, sì, è vero, sì, un anno fa. Siamo praticamente. Ottobre. Praticamente un anno fa. Esatto. E la sua testimonianza è di adesso. Io non è che glielo ho chiesto il giorno prima a lui, era già un po' che no, certo. Che però scusi un attimo. Non è una cosa di ora. No, Mariani, anche lei come Apicella dice finché ero io là, fino a quando non sono andato via, non ho mai visto scene di sesso, giusto? Ma è vero, è così, non è che si dice questo perché siamo comprati, ma no, è vero, la no, quello che succedeva a Arcore era come quando sarà capitato a qualcuno di voi di fare una cena in casa con amici, un ultimo dell'anno, dove si mangia, si cena, si racconta delle barzellette, si canta con caro, cioè, a cosa lo paragonerebbe a lei questa cosa qua? Le cene di Arcore, a cosa le paragonerebbe? A delle una cena in casa fra amici, certo, come cena in casa, come tantissimi fanno, voglio dire, cioè non è niente di niente di meno e niente di più, insomma, di quello che può essere una cena in casa fatta di balli, di canti, di barzellette, di parole serie, anche di discorsi di politica o di cose mai visto. Comunque, fino a quando lei a che ora andava via di solito? Io spengo, quindi andavo via in fondo, perché spengo tutto, poi che ne so, andava via all'una, alle due, all'una, alle due. A volte si è fatto mezzanotte, a volte si è fatto un sabato, si può fare le due, dipende. Mariani, grazie, però grazie, a presto. Prego, a presto, ci sentiamo domani. Parenzo, sei già imbarcato sull'aereo, domani 18:30. Sì. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.